può decidere anche altro, in teoria tutto ciò che attiene alla vita familiare, come il diritto alla successione, non servirà più fare testamento. Sulla pensione di reversibilità, invece, dice Gassani, andrei cauto perché sono soldi pubblici e non è così scontato. Penso però invece potrà decidere sull'assegno di mantenimento, cioè quello che si dà nelle separazioni. Non vedo perché no, anche se i giudici dovranno sudare sette camicie per stabilire l'entità. Insomma, una sentenza che, dice l'avvocato presidente degli avvocati matrimonialisti, è assolutamente rivoluzionaria. Avvenire invece tuona nozze gay, Cassazione fuori strada. Questo è, cari ascoltatori, sono le 7.54, sappiate, giusto per chiudere, che in Gran Bretagna hanno stabilito che l'ora peggiore per fare incidenti sono le 8.38 della mattina, dunque tra 42 minuti. Lo trovate sul Corriere della Sera, 8.38 di mattina, perché a quell'ora i pedoni attraversano allegri guardando l'iPhone, guardando Twitter e poi si fanno schiacciare. 8.38, attenzione, giornale radio. Mattino. Sono le 8.22 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi venerdì vogliamo parlare un po', ma sì, noi lo diciamo così, lotta alla casta. Non so se si arrabbia il nostro primo ospite, che è il sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. È anche consigliere regionale del Popolo della Libertà e ieri il Corriere della Sera con Sergio Rizzo ha fatto sapere che, insomma, c'è una legge che prevede da un'incompatibilità tra le due cariche. Lei da quanto tiene questa doppia poltrona? Allora, io sono stato eletto sindaco a maggio dell'anno scorso, però l'articolo di Rizzo mi occorre fare chiarezza perché scrive molte inesattezze. Io ho sentito anche il mio ufficio stampa, ha sentito anche telefonicamente Rizzo e sono convinto, con la sua professionalità che non contraddistingue, che lui ha già detto, insomma, di fargli avere tutte, anche perché ci saranno delle evoluzioni, quindi sarà poi lui a correggere il tiro. La inesattezza più importante, più grave, è quella lì, che io non percepisco lo stipendio. Sì, ma questo, infatti, tutti coloro che tengono due cariche, no, l'emolumento è uno, che in questo caso è da quello da consigliere regionale. Io, a differenza di tutti quanti il resto d'Italia, io ho quello da sindaco. Che è molto di meno. Quant'è? Allora, il sindaco prende 3.500 euro, il consigliere regionale 11.000 euro, quindi capisce bene la grande differenza che c'è. E come mai lei si è rinunciato? Ma io, perché ho fatto una scelta molto chiara, difatti la mia, perciò dicevo, la mia incompatibilità è una compatibilità su generis ed unica in Italia. Allora, io ho fatto una scelta molto chiara, decidendo di fare il sindaco. Poi che cosa è successo? È successo che il consigliere regionale del PD, che poi era il mio competitor nella elezione a sindaco, ha fatto un ricorso. Per dichiarare illegittima le elezioni di È da qui che è nato tutto, perché lei dice: in attesa del ricorso, io che faccio? Mi dimetto da sindaco, poi dopo perdo. Lei ha centrato benissimo, però per correttezza ho scelto lo stipendio da sindaco, perché la mia volontà è quella di fare sindaco. L'ho scritto anche al presidente del consiglio regionale. Tra l'altro, io sono stato eletto, non sono uno dei consiglieri regionali nominati. Ho preso 11.000 preferenze, poi ho preso 48.000 come sindaco, giustamente trovandomi tra l'incudine e il martello, quindi con un vulnus giuridico, quindi non si era cristallizzata la mia... Ha tenuto i due posti, perché dice: mica che poi mi fanno decadere da sindaco, intanto rinuncio, che ne so, al consiglio regionale, mi trovo spiantato a zero. Mi trovo fuori da tutte e due, andando a scontentare oltre 60.000 persone, quindi insomma... Comunque il ricorso, se non sbaglio, è arrivato, cioè adesso lei è il sindaco a pieno titolo, il ricorso è stato respinto, lei è allora, il sindaco di... Ecco, voglio fare un'ulteriore precisazione, io ho vinto il... ricorso presentato dall'onorevole Moscardelli, insomma anche il TAR è stato molto chiaro, ha detto che era addirittura infondato, quindi dandomi piena ragione. Nel frattempo la persona che era dietro di me nel Consiglio regionale, anche lei in un paradosso giuridico ha fatto un 700, giustamente. È certo, perché dice liberi il posto di Giorgi, che così subentro io a 11.000 euro al suo posto. E quindi, qui subito per buttarsi dentro il calderone, il giudice ovviamente gli ha detto guardate che non è materia elettorale, non è competente il giudice, e quindi ho vinto anche quella lì. È soltanto pendente per lunedì prossimo un'ulteriore azione popolare promossa dal capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Tra l'altro io sono convinto che da il ricorso dell'onorevole Moscardelli non avrà seguito, anche se loro hanno 20 giorni di tempo per fare appello, ma visto la motivazione chiara, netta, a mio favore, sulle mie lei è sicuro di questa cosa. Però il dato di fatto è questo, cioè mettiamo il caso che lei sarà, non ci saranno più ricorsi tra qualche giorno, che fa? Quindi lascia il Consiglio regionale e si dimette. Io addirittura anticiperò, anzi vi invito, perché io è mia intenzione lunedì vedere un attimo l'evoluzione, ma se ci saranno anche evoluzioni prima, perché non escludo, visto la mia piena legittimità a queste elezioni da sindaco, avendo vinto tutte quante le cause in corso, potrebbero esserci anche evoluzioni, è mia intenzione protocollare le dimissioni, quindi io non voglio mantenere questa doppia carica, mi trovo soltanto in questo paradosso giuridico unico in Italia, ma la mia volontà l'ho espressa chiaramente, l'ho messo nero su bianco. Chiaro, così sarà contentissimo anche chi le subentra, insomma. Sì, il Consiglio regionale. Sicuramente. E lì che freme, lì. Senta, sindaco. Tra l'altro la mia scelta, la dimostrazione che non mi sento casta, l'ho fatta scegliendo l'emolumento da sindaco. Quello minore, ha rinunciato a 8.000 euro. Senta, sindaco, le devo chiedere questo perché la cronaca mi impone di fare una domanda latina oggi è sulle prime pagine dei giornali per la vicenda di questa coppia Antonio e Mario che si sono rivolti alla Cassazione per venire e hanno visto riconosciuto gli stessi diritti delle famiglie, sono una coppia omosessuale, ho scoperto sono di Latina, cioè vivono a Latina, si sono sposati in Olanda nel 2002, in Italia non è possibile riconoscere il matrimonio omosessuale ma hanno diritto a vita familiare, questo potrebbe aprire anche alcuni diritti sulla questione per esempio dell'eredità eccetera, che ne pensa lei come sindaco di questa vicenda? Ma io sono contrario a questa sentenza, perché io penso e sono fortemente che la famiglia è formata da un uomo e una donna, quindi a questa sentenza tra l'altro ha aperto, unica in Italia, quindi sicuramente aprirà dalla parte come avvocato, perché io facendo come avvocato apre sicuramente delle riflessioni, però a livello politico e a livello di pensiero posso dire che sono soltanto contrario, cioè, per lei la famiglia è fatta da un uomo e una donna. Sono contrario alle nozze tra gay. È contrario alle nozze gay, ma voglio dire il fatto li conosce questi, cioè nel senso le dà fastidio il fatto che siano Latina, le dà fastidio che Latina sia sulle prime pagine dei giornali per questo fatto oggi? No, su questo qua no, insomma non è un fatto di diritto, il nostro è uno stato di diritto e quindi no, su questo qui no, è giusto che poi il diritto faccia il suo giusto corso, quindi insomma no, su questo qui non crea problemi come città, anche perché poi vivono anche poco la città, quindi insomma no, su questo qui non nessun problema. Possono viverla come gli altri su questo. Certo, io su questo non è tremendo, poi ognuno è libero giustamente di fare le proprie scelte, però non posso essere favorevole che le scelte di qualcuno poi siano diritto per tutti, quindi io sono contrario alle nozze delle coppie gay. Perfetto, sindaco, è stato molto chiaro, la ringrazio, in attesa delle dimissioni che allora arriveranno finiti tutti i ricorsi a breve. Sicuramente vi informerò prima, insomma. Va bene, grazie al sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi, buongiorno a tutti quanti, che rimane ancora per qualche giorno anche consigliere regionale, ma ci ha spiegato perché, ma a me interessa perché poi vogliamo introdurre il discorso che affronteremo adesso, tra poco, tra qualche minuto, dopo la pubblicità. Il discorso è questo: c'è una legge dello Stato italiano che impone alle regioni di avere un numero di consiglieri regionali, quindi rappresentanti politici, in proporzione alla popolazione della regione. Questo vuol dire che per adeguarsi a questa legge molte regioni dovrebbero ridurre drasticamente il numero dei consiglieri. La regione Lazio da 70 che ne ha dovrebbe averne 50. la regione, che ne so, Puglia da 70 a 60, la regione Sardegna da 80 a 30 dovrebbe scendere. Alcune regioni si sono adeguate, pochine, a questa legge dello Stato italiano, altre regioni hanno detto: questi tagli non ci garbano, facciamo ricorso alla Corte Costituzionale. 24 mattino. E allora, lunedì scorso il Sole 24 Ore titolava: le regioni dribblano i tagli, e ieri sul Corriere della Sera: tagli impossibili ai consigli regionali. La vicenda è presto detta, c'è una legge dello Stato, un decreto legge dello Stato che impone, imporrebbe alle regioni di avere dalla prossima legislatura un numero di consiglieri assessori in base, in proporzione alla propria popolazione. E questo vorrebbe dire tagli anche drastici. Per esempio, la Sicilia dovrebbe passare dai 90 deputati attuali a 50, da 90 a 50. Il Lazio da 71 a 50, la Puglia da 70 a 60, la Sardegna da 80 a 30. Allora, ci sono alcune regioni che già rispettano questi parametri, come Lombardia ed Emilia-Romagna. Alcune regioni come Toscana e Veneto hanno recepito questa legge dello Stato e quindi si sono adeguate. Altre regioni, molte, 11, hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale dicendo: questi tagli non ci garbano. Ne vogliamo parlare con due ospiti, sono già stati con noi, li risaluto. Il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, Matteo Richetti. Buongiorno Richetti e ben ritrovato. Buongiorno Milan, ben ritrovato. Partito Democratico, l'Emilia-Romagna è nei parametri, dunque non dovevate fare niente. Saluto anche il presidente del Consiglio della Regione Lazio, Mario Abruzzese, ben ritrovato anche lei, del Popolo buongiorno, della Libertà. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Invece voi abruzzese fate ricorso alla Corte Costituzionale, così. La giunta ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale. E perché non vi garbano questi tagli? Non è tanto che non ci piace, anche perché dobbiamo spiegare bene che quello che sta avvenendo. Quindi l'articolo 14 in discussione, quindi del decreto legge dell'agosto 2011, parlava di del coordinamento della finanza pubblica, e quindi ai fini della collocazione nella classe degli enti territoriali più virtuosa ricollocava una serie di regioni e indicava alle regioni alcuni provvedimenti da adottare. Sì. È chiaro che questi provvedimenti da adottare, per quanto ci riguarda, cozzano con l'articolo 123 e l'articolo 122 della nostra Costituzione. E cioè? Qualsiasi principio. Me li dica, qualsiasi... perché sai, io cioè, a no, memoria tutto. Qualsiasi principio, è chiaro, il principio di organizzazione e funzionamento delle regioni è demandato al nostro statuto. Il nostro statuto cioè dovete decidere voi se tagliare o no. Mica è un decreto legge. Volevo ricordare agosto 2011, dunque Tremonti, cioè c'era il governo Berlusconi ancora. No? Sì. Quindi. Non è un problema. No, è un dato di fatto. C'è Monti, qui si tratta di rispettare la Costituzione. Se poi non la vogliamo rispettare, è un altro tipo di. Allora, la Costituzione dice che questi eventuali tagli li deliberano le regioni. Matteo Richetti, c'è da dire, appunto, voi, vabbè, lei gioca facile adesso perché voi non dovevate fare tagli, insieme alla Lombardia, siete parametrati, 50 consiglieri, 50 dovreste dire. Che ne pensa dei ricorsi degli altri, Richetti? Ma io penso che fare ricorso su quel decreto legge sia stato corretto nel momento in cui quel decreto legge non parlava solo di numero dei consigli regionali. Ricordo che il ricorso è stato fatto anche dalla Regione Emilia-Romagna, è stato fatto sull'articolo 3, accesso alle professioni, attività economiche, sull'articolo 4, servizi pubblici locali, ricordo che è una competenza concorrente, quindi il ragionamento delle regioni è stato: il governo non può legiferare su materia che è anche nostra. Ricordo ad esempio che l'articolo 11 si è regolamentato il tirocinio formativo, quando la formazione professionale e il lavoro sono competenze delle regioni. C'è nella fattispecie il tema che non voglio eludere, che lei giustamente Milan pone stamattina, cioè: quando arrivano i tagli fate ricorso e non vi adoperate per mettervi a norma rispetto ai parametri. Io penso che insomma, la logica di autoregolamentazione, di autoriforma delle regioni sia una logica condivisibile, non vedo perché io non possa determinare il numero dei parlamentari e invece il livello sì. centrale possa determinare il numero dei miei consigli regionali, perché qui è come un genitore che dice al figlio di non fumare con la sigaretta in bocca, perché poco che andiamo avanti così il Parlamento ci dice che noi dobbiamo ridurre quando non riescono a ridurre neanche del 10% il numero dei parlamentari. Qui il tema è un altro, è capire se il sistema delle regioni ha la forza di dare un impianto coerente dalla Valle d'Aosta alla Sicilia rispetto al suo modo di funzionare. Questo oggi non c'è e manca, ma non c'è nemmeno nell'impianto del governo. Sa Milan, posso farle una domanda? Sì. Perché si prevede che fino a 1 milione ai 20 consiglieri, fino a 2 milioni ai 30 consiglieri, fino a 4 milioni ai 40 consiglieri, fino a 6 milioni 50, poi si passa a 70 e 80. Cioè non è previsto un consiglio, mentre c'è tutta la graduatoria, di 60 consiglieri. E perché? Cioè... Ma non sarà che i ragazzi Tremonti e Calderoni si sono fatti tutto sommato un impianto che metteva a posto la Lombardia, perché non esiste ovviamente, cioè, oltre gli 8 milioni e c'è solo la Lombardia, non c'è nessuna regione tra i 6 e 9 milioni di abitanti. E tra l'altro lì è previsto 70 consiglieri che non ha nessuno. Ricordo, rispetto a quello che lei diceva in premessa, che la Puglia è a 70, non dovrebbe essere a 60 ma a 50, sì. A 50. Non esiste il livello dei 60, c'è un piccolo errore nella tabella che è stata riportata, ma è solo una correzione di forma. E quello che manca complessivamente è una volontà politica chiara di riportare tutto a razio, a norma, e la strada c'era. Io vorrei fare una proposta, ne ho fatte tante al governo precedente in ascoltato, ne faccio una questa. Il problema non è determinare il numero dei consiglieri, perché io sono d'accordo che ogni regione si determina il proprio numero. Mettiamo un bel parametro che non si può spendere più di un euro ad abitante all'anno per l'indennità di tutti i consiglieri. A queste le avevamo già parlato, cioè anche la spesa. Ma io quando mi chiama io mi commuovo e riparto da lì, perché sai, non si commuove. Diventa una cosa un po' complicata. No, io vorrei però abruzzese, cioè torniamo alla regione Lazio, il punto è questo, non volete un'invasione di campo, cioè come dice Richetti il Parlamento manco si riesce a tagliare, prima dicevano del 50%, poi forse adesso del 20%, non si sa quanti parlamentari verranno tagliati, vi dà fastidio che vengano a interferire sull'autonomia decisionale delle regioni, questo è il dato di fatto, però dal punto di vista del cittadino che vede che non si taglia niente, lei che pensa? Ma guardi, intanto non è così, Righetti, mio collega, ha spiegato bene diciamo l'impianto costituzionale, quindi l'autonomia statutaria che hanno le regioni nel nostro paese e soprattutto codificato dalla nostra Costituzione. Però non è vero che le regioni non sanno autoriformarsi, autodeterminarsi, quindi noi abbiamo fatto dei tagli importanti in questi 2 anni, ne abbiamo parlato già con lei, dottor Milan, in altre occasioni, quindi abbiamo, per quanto mi riguarda, la Regione Lazio, ho trovato una situazione abbastanza complessa, quindi abbiamo rivisto i monogruppi, tagliato una serie di indennità. Poi è chiaro che non è facile quando si tratta di portare argomenti in assemblea. Noi come Presidente dell'Assemblea non è che possiamo obbligare l'assemblea a votare o deliberare alcune proposte di legge. Ma secondo lei il ruolo di arbitro. No, certo, ma secondo lei, visto che l'autonomia è vostra, li tagliere, cioè è giusto parametrare a 50 posso, i consiglieri? Io posso esprimere la mia opinione, sì, la mia idea, per quanto mi riguarda io sono convinto che con 50 consiglieri regionali si può governare ancora meglio la regione. Oh, benissimo, lo faccia, fatelo. La è una mia posizione del tutto personale. Ma lo faccia, Presidente, si adoperi per questo, faccia una legge, proponga una legge, la metta poi al voto. La legge viene approvata dall'Assemblea. Beh certo, lei la potrà proporre, no, però. Tra l'altro la nostra giunta ha proposto un ricorso, quindi non si può presentare una proposta di legge che va contro il ricorso. Beh, effettivamente. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi Presidente Abruzzese, però le vorrò chiedere questa cosa sulle commissioni. Ieri ancora è stata rilanciata dalla stampa la commissione che era nata per la possibile assegnazione dei giochi olimpici di Roma nel 2020. I giochi olimpici non ci saranno, ma la commissione non si riesce, è ancora lì, c'è la commissione che fa una commissione se i giochi olimpici non ci saranno mai. Allora Allora, perché le regioni non si tagliano i consiglieri? Questo è il tema di oggi. Presidente abruzzese, allora, Consiglio regionale del Lazio, ci spieghi. Io l'ho capita, cioè ho capito che per sopprimere una commissione ci vuole una legge regionale, non è che si può sopprimere così. Ah, su questo abbiamo già raggiunto l'accordo. Perché certo, spieghiamolo agli ascoltatori, c'è ancora in vita la commissione che era stata istituita per i giochi olimpici, quando tutto il mondo sa che i giochi olimpici non ci saranno più. Vorrei precisare che si sono già dimessi tutti i componenti della commissione, compreso il presidente, quindi abbiamo già deciso in conferenza dei capigruppo di portare nella prossima assemblea la revoca di questa commissione, quindi sì. non c'è nessun ci tipo sarà. Di problema. Però è un po' burocratica questa cosa, cioè, ma accidenti, porca miseria, ma com'è possibile che ci sia una commissione quando le Olimpiadi non ci saranno mai? L'assemblea legislativa funziona così, È burocrazia, no. È burocrazia. Non esiste. Ma è vero che costa? Non esiste, cioè al momento la commissione c'è. È vero che costa 250.000 euro l'anno questa commissione? Certo, la commissione costa 250.000 euro l'anno. Certo. Ma non ci saranno mai le Olimpiadi, cioè perché li paghiamo? No, ma l'abbiamo stata soppressa, quindi in qualche modo eliminata, quindi andrà in aula nei prossimi giorni. Andrà eliminata, cioè per quest'anno pagherà però. Ma io con lei ho preso già un impegno, sì. No? La volta scorsa. I monogruppi. Ci sono i monogruppi? È un impegno che io ho mantenuto, eliminato e ho modificato questa norma regolamentare. Ma cioè questo dalla prossima legislatura? Cioè attualmente? No, da oggi. Quindi da non oggi, esiste quindi più un monogruppo? Da oggi non si possono costituire più monogruppi. Ho capito, ma quelli che c'erano prima... Ma quelli c'erano già, quindi quelli non possono essere modificati. Non possono essere soppressi. La norma non può essere retroattiva. La norma vale per il futuro, quindi attualmente ci sono... Ci sono sempre attualmente dei monogruppi che prendono questa Richetti, questa è un cavallo di battaglia. Ci sono delle persone che formano dei gruppi consigliari formati da uno, quindi si riuniscono loro. Che nella regione Lazio formavano. Formavano. Oggi non è più possibile. Formavano. Oggi non sarà più possibile. Da oggi non è più possibile. Però Richetti, questa come la spieghiamo ai cittadini? Attualmente ci sono ancora, ma non ci sarà più per il futuro, per l'intervento del Consiglio regionale, monogruppi, quindi gruppi consigliari che per questo prendono delle indennità maggiorate. Formati da uno, si riuniscono da soli, deliberano da soli in gruppo. Per il regolamento interno dell'Emilia Romagna questo non è possibile, non si possono fare. E questo anche per il Lazio da adesso in poi, prima purtroppo. Diciamo che da 3 settimane in Emilia Romagna, grazie ad un'intesa con tutti i gruppi consigliare, se lei va sul sito assemblea.emr come emiliaromagna.it, non solo vede i gruppi, quanti soldi prendono, quante risorse gestiscono, ma anche i nomi e i cognomi delle persone che lavorano ai gruppi, comprese le segreterie particolari del Presidente. Se lei va sul sito e va alla voce del Presidente dell'Assemblea, vede i nomi e i cognomi delle persone che lavorano per me con un contratto fiduciario, quanto costano, se sono tanti, se sono pochi. Cioè io penso, e non sono d'accordo su un punto rispetto a quello che diceva Abruzzese, quando dice non possiamo fare una legge che c'è un ricorso, ma insomma in Emilia ormai ci sono 50 consiglieri, non perché un giorno una mano dall'alto ha imposto questo numero, ma perché il 27 luglio del 2009, non 30 anni fa, l'Assemblea, il Consiglio, ha votato in doppia lettura perché è una modifica statutaria ed era l'anno prima del voto, perché l'Emilia Romagna sarebbe andata al voto nel 2010 per 67 consiglieri che erano già stati approvati nella precedente legislatura. E ragazzi, volere e potere, la politica deve esercitare fino in fondo. Quindi voi vi siete ridotti, voi con una lei con il doppio voto avete cambiato lo statuto e l'avete... Perché siccome sento che qualcheduno sta mettendo mano, giustamente, no? Non tanto in adeguamento al decreto nazionale, ma rispetto ad una logica di buon senso, di riduzione di sobrietà, però attenzione, i provvedimenti scattano quando le leggi hanno effetto e quando gli statuti sono modificati. Siccome sono cose complicate, ci stanno prendendo in giro a livello nazionale da tanto tempo che l'abbiamo capito, no? Quando si ragiona, ma questa è una modifica costituzionale, cambiare il numero non è possibile. No, è possibile che si cambia la Costituzione. Una volontà politica talmente forte che dice basta, adesso da 1.000 parlamentari si va a 600, e così si è fatto in Regione Emilia Romagna, come si sta facendo in altre regioni. Allora mi faccia sentire Antonella da Imperia, che ci ha chiamato all'800 24 0024. Antonella. Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei dire una cosa che secondo me bisognerebbe valutare molto molto bene, proporre e andare oltre. Il taglio va bene, anzi sarebbe assolutamente auspicabile, ma da solo, così com'è, lasciando le cose così come sono, non facciamo grossi passi avanti. Io oltre a essere italiana sono siciliana, potrei raccontarvi molte cose, ma direi che la cosa più importante è che i partiti, tutti obbligatoriamente, aderissero al programma di trasparenza, così come hanno aderito molte imprese, diciamo, quelli che fanno parte di questo percorso antimafia, che accettano di essere trasparenti, sì, come l'acqua. È il primo passo, è l'unico passo dal quale in poi verranno tutti gli altri, perché sappiamo benissimo che la giustizia riesca a provarlo oppure no. Ma sappiamo benissimo che in Italia i nostri partiti, moltissimi, sì, politici, sono... Quindi vorrebbe una sorta di certificato, che ne so, antimafia per i partiti. Se questa gente ha in mano un paese, governa il nostro paese, ed è impensabile. È come il poliziotto che viene arruolato, il carabiniere, gli chiedono tutto, gli chiedono la fedina penale. E i partiti no. No, grazie Antonella. Vorrei andare a Salerno da Antonio, buongiorno. Buongiorno. Chiudo con lei, Antonio, dica. Buongiorno. Senta, io sono sono di sinistra da sempre, sì, ho 57 anni, e c'è anche qualche politico di sinistra che mi ascolta. Io sono una persona che considera la morale una cosa importantissima. Sì? Beh, mi sembra un balletto incredibile. Perché, tanto per fare un nome e un cognome, il signor Bersani, che mi sembra che di sinistra ne abbia molto poco, non si presenta un giorno, oggi, domani, sì, lunedì, dice, in Parlamento e proponga veramente un qualcosa di serio taglio della politica, perché qua mi sembra un balletto. È il balletto, cioè lei dice il balletto delle dichiarazioni e non se ne vede nulla. L'invito a Bersani. La ringrazio Antonio, devo chiudere qui con lei. Grazie a Matteo Richetti, presidente del Consiglio regionale Emilia Romagna, e Mario Abruzzese della regione Lazio invece. A tutti, da Elisabetta Fusconi, Viola Bottone, Alessandro Longoni e Peter Bescapè, l'alpino, a lunedì. Vulcapello.